sogni, desideri che hai nel cuore e nella mente. Questa notte è fatta proprio per poterti librare, per volare senza limiti in un grande scenario che ti avvolge e ti ricorda di aggrapparti alla meta. Le lampare del tuo cielo messe a lampadario, con al centro un bel diamante ed una stella cometa. Sono qui a ricordarti, anche se tu non ci credi, che sei sempre la più bella tra le cose incontrate e che sei straordinaria più di quello che vedi. Raggio caldo e luminoso di un frangente d'estate. Non nasconderti nell'ombra di una storia del passato, perché è inutile rincorrere chi ha sempre taciuto. Forse non poteva dire ciò che non ha mai provato, neanche quando ha visto in te quello che ho sempre saputo. Perché non ci provi, dai, a guardarti allo specchio con gli occhi miei? Non basta la fantasia per cogliere il senso di quello che sei. Riesci sempre a dire cose che non ho mai sentito, graffi più con le parole che con l'unghia di un dito. Tutto intorno cambia, tutto si trasforma, cambia scenografia. Lo vedo anche da qui, stai sorridendo. Entra in scena, dai, voglio proprio vedere.